E ora ci addentriamo nell'isola che non vedi. Percorsi, natura, storia, vita. A cura di Maiorca Trekking. Un caloroso buongiorno da parte di Sergio a tutti gli ascoltatori di Italiana ed eccoci qui puntuali come ogni venerdì per il nostro appuntamento con l'isola che non vedi, la rubrica curata da Maiorca Trekking che vi porta alla scoperta di tutto ciò che c'è di più nascosto e meno conosciuto nella nostra splendida isola. Quella di oggi sarà solo la prima di due puntate dedicate alla vita e al pensiero di Ramon Llull, scrittore, teologo, astrologo, alchimista e missionario maiorchino tra i più celebri dell'Europa medievale. Personaggio dalla sconfinata cultura, nella sua enorme produzione letteraria di 260 opere mischiò religione, scienza e filosofia, amando e comprendendo la grandezza del pensiero musulmano, riconoscendone i meriti nonostante fosse un cristiano fervente. Rinominato il dottore illuminato, influenzò con il suo pensiero personalità di spicco della cultura europea come Pico della Mirandola, Giordano Bruno e soprattutto Cartesio, che lo citò più volte in molti suoi scritti. Tanto da spingere gli studiosi a parlare di lullismo come una vera e propria corrente filosofica nata dallo sviluppo successivo della sua dottrina. Oggi ci concentreremo sulla sua incredibile vita per poi approfondire nella prossima puntata il suo complesso pensiero filosofico. Se siete dunque pronti a conoscere meglio uno dei più illustri maiorchini del mondo, non lasciate Italiana perché fra poco si parte. Strade mercenarie del sesso che procurano fantastiche illusioni. Senti la mia pelle come vellutata, ti farà cadere in tentazioni. Per regalo voglio un harmonizer con quel trucco che mi sdoppia la voce. Quest'estate ce ne andremo al mare per le c'è qualcuno fermo che ci saluta. Senti questa pelle come profumata, mi ricorda l'olio di Tahiti. Nelle sere quando c'era freddo si bruciavano le gomme di automobili. Quest'estate voglio divertirmi per le bentornati su Italiana per cominciare il nostro viaggio di due puntate alla scoperta dell'incredibile personalità di Ramon Llull, uno dei figli illustri della nostra Maiorca. E cominciamo il nostro viaggio dalle notizie biografiche che abbiamo su di lui, che derivano proprio dallo stesso Llull, che nel settembre del 1311, ormai più che ottantenne, dettò ad un monaco della certosa di Beauvais di Parigi La vita coetanea, un'opera scritta ritenuta autobiografica. La vita coetanea inizia la sua narrazione con un fatto cruciale della vita di Llull, ossia la sua conversione alla penitenza avvenuta intorno ai 30 anni. Fino ad allora, infatti, Llull, nato nel 1232 da una nobile famiglia catalana trasferitasi a Palma, era stato un donnaiolo infaticabile e un brillante letterario dedito soprattutto ai vizi e al peccato. La vita descrive minuziosamente i tre principali momenti della conversione lulliana. Il primo è una visione notturna di Cristo crocifisso che si succede per 5 volte, ad intervalli di alcuni giorni l'una dall'altra, mentre il giovane Ramon, usando le sue stesse parole, era impegnato a pensare a una vana canzone e quella scrivendo in volgare per una sua innamorata, la quale allora di amore vile insulso amava. Dopo aver provato a rinnegare quelle visioni, alla fine Llull ne accetta il significato, lasciando il mondo per mettersi al servizio di Cristo. Sarebbero dovuti passare 3 mesi perché si verificasse il secondo episodio della sua conversione, che avvenne durante la festa di San Francesco. Ramon, ascoltando un sermone del vescovo della chiesa dei Francescani, decide di vendere tutti i suoi beni, abbandonare la propria casa e cominciare un pellegrinaggio, che lo porta prima in Francia e poi a Santiago de Compostela, dove avviene il terzo episodio della sua conversione. Il colloquio con Raimondo di Peñafort, generale dell'ordine dei predicatori, che lo dissuade dall'andare a Parigi per completare la sua formazione, convincendolo a tornare a Maiorca per realizzare i suoi propositi e abbracciare la povertà. Completato il suo processo di conversione, Llull si pone 3 obiettivi di vita: scrivere un libro contro gli errori degli infedeli musulmani, fondare dei monasteri dove si insegnassero le lingue necessarie per la missione di evangelizzazione degli arabi e dedicarsi alla conversione altrui, anche a costo del martirio. Per realizzare il primo obiettivo, Llull a lungo si chiede in qual maniera doveva scrivere il libro che si era proposto di redigere, ed è lui stesso che nella sua biografia situa l'avvenimento decisivo durante una contemplazione in cima ad una montagna, che la tradizione ha voluto fosse il Puig d'Aranda, non troppo lontano da Palma. Llull racconta che fu il Signore che illuminò la sua mente, dandogli la forma e la maniera di fare il libro, aggiungendo che subito dopo si recò in un'abbazia e redasse il libro che intitolò semplicemente Arte. Al secondo proposito di creazione di scuole missionarie si dedicò quasi subito, sollecitando l'erede del regno di Maiorca, Giacomo II, a fondare una scuola di questo tipo. Si trovarono terreni a Miramar, di fronte al mare, sopra le rocce a picco fra Deià e Valdemossa, e il 17 ottobre del 1276 il progetto ricevette conferma con una bolla di Papa Giovanni XXI, che autorizzò 13 frati minori ad apprendere l'arabo al fine di convertire i musulmani, essendo lui convinto che il dialogo e il proselitismo potessero fare molto di più della violenza delle crociate. Fu però un'esperienza breve, perché documenti antichi attestano che già nel 1301 il convento non esisteva più. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there. But I was a fool, laying by the rules. The gods make rowan dice, their minds as cold as ice, and someone kiss. Rieccoci tornati con L'Isola che non vedi e con Sergio, dopo questa breve pausa musicale, e continuiamo a conoscere meglio la personalità del nostro dottore illuminato Ramon Llull. Esaurita l'esperienza di Miramar, dal 1307 Llull iniziò a dedicarsi al terzo proposito di cui parlavamo prima, ossia l'opera missionaria. Fervente sostenitore della soppressione dei Templari, scrisse una serie di trattati dedicati a Filippo IV il Bello, acerrimo nemico dei monaci guerrieri, in cui riconosceva in maniera netta non solo la preminenza politica della Francia in Europa, ma anche il diritto del re ad intervenire negli affari ecclesiastici. Sollecitò spesso l'aiuto di re Filippo per fondare altri collegi simili a Miramar, e questa devozione diede i suoi frutti perché Llull ricevette proprio da Filippo il Bello la qualifica di Vir Bonus Justus et Catholicus, nonché il permesso del Concilio di Vienna per fondare altre cattedre per l'insegnamento delle lingue orientali per i futuri missionari. La conoscenza dell'arabo che aveva Llull ne fece un caso unico fra i teologi del tempo. Era molto orgoglioso del suo dominio della lingua, scrivendo spesso le sue opere non solo in latino e catalano, ma anche in arabo. Queste opere ebbero una tale risonanza che molti documenti raccontano di una discussione avvenuta nel 1394 al palazzo del sultano di Fez proprio sui testi del maiorchino. Ma Llull si distinse per la sua conoscenza non solo della lingua araba, ma anche della religione musulmana. Nei suoi scritti spesso si riferisce al Corano, riporta commentari degli studiosi musulmani sul testo sacro e aveva persino familiarità con le pratiche rituali islamiche. Ma l'obiettivo missionario di Llull si estendeva anche alle comunità ebraiche. In quel periodo tale compito era assolto dall'ordine domenicano dei frati predicatori, che dispiegava intensamente la sua attività missionaria nel Regno d'Aragona attraverso diverse scuole per lo studio della lingua ebraica, con la finalità di scoprire gli errori di interpretazione che la tradizione giudaica faceva dei testi sacri. Se il metodo dei domenicani si basava sulla discussione dell'errato senso del testo biblico da parte degli ebrei, la dottrina di Llull fu concepita come un'alternativa ai dibattiti scolastici e sterili dei predicatori domenicani. Llull infatti voleva provare, attraverso ragioni evidenti, le verità del cristianesimo in forma chiara e razionale, in modo da produrre automaticamente la conversione degli ebrei. Tale fu la forza di tale nuovo metodo che Llull ottenne nel 1299 dal re Giacomo II d'Aragona un permesso speciale per poter predicare in tutte le sinagoghe del regno. La sua carriera di missionario lo porterà così a girare mezza Europa, sollecitando aiuti dai regnanti e dai papi ed esponendo la sua arte oratoria nelle piazze e nelle università, in particolare a Parigi, dove ottenne il titolo di maestro di arti. Durante i suoi viaggi curò la copia, la traduzione e la diffusione dei suoi libri, incontrò signori cristiani e musulmani, passando per Cipro, in Armenia, a Rodi, a Malta, a Napoli, a Genova e a Tunisi, dove ebbe modo di disputare sulla vera religione con un magistrato musulmano che ne ordinò l'incarcerazione. Ed è proprio durante questo viaggio, nel 1315, che le notizie della sua vita si interrompono, dando vita a varie versioni sulla sua morte. Alcuni dicono che sia morto martire, proprio come lui aveva sempre desiderato, lapidato da un gruppo di tunisini che stava tentando di convertire con la predicazione. Altri invece che sia semplicemente tornato nella sua Maiorca per morire di lì a poco all'età di 84 anni. Ciò che è certo è che dopo tanto peregrinare al di là di come sia morto, alla fine è riuscito a tornare nella sua isola perché le sue spoglie riposano nella chiesa di San Francesco di Palma. Yeah. Ed eccoci anche oggi alla fine del nostro appuntamento con l'Isola che non vedi, anche se la nostra conoscenza con Ramo Iulio continua, perché la prossima settimana ci concentreremo sulla dottrina e sul pensiero filosofico che lo hanno reso una delle personalità più apprezzate della cultura medievale di stampo cristiano e che ancora oggi lo rendono oggetto di studi continui. Quest'oggi è però una puntata speciale anche per un altro motivo, perché attraverso la mia voce Mallorca Trekking ufficializza anche su Italiana il nostro evento inaugurale. Sabato 21 marzo, infatti, terremo presso il ristorante La Grande Armonia in Calle Olmos a Palma una cena offerta da noi, durante la quale presenteremo tutto il progetto Mallorca Trekking, le nostre attività per il 2020-2021, le nostre escursioni e le varie modalità di partecipazione ai nostri eventi in calendario. Sarà un'occasione unica per conoscerci tutti e saremo lieti di ospitare chiunque di voi voglia far parte del nostro club. Per tutti i dettagli e per scoprire come essere dei nostri, vi invitiamo a connettervi alla nostra pagina Facebook Mallorca Trekking, l'isola che non vedi, o a seguire il nostro account Instagram Mallorca Trekking Project. Vi aspettiamo numerosissimi e credetemi se vi dico che non ve ne pentirete. Scoprirete un modo nuovo per vivere la vostra isola e scoprire le sue meraviglie. Alla prossima! L'isola che non vedi. Percorsi, natura, storia, vita. A cura di Mallorca Trekking.